Eccoci qua, i tuoi desideri, i cattivi pensieri, taglietti come rasoi, oh, non ti fidare, lasciati andare, lasciati andare, fatti guidare, per non piangere mai. Siamo quello che non vuoi più. Insieme a te navighiamo nei tuoi pensieri, sempre primi fra i tuoi problemi, e poi dopo non ci vuoi più. Sono dentro di te.